Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Il 23 e 24 aprile scorsi all'I3P, l'incubatore delle imprese innovative del Politecnico di Torino, si è svolta la sessione italiana della International Space Up Challenge, il più grande hackathon dedicato allo spazio a livello mondiale, una sfida lanciata dalla NASA e dall'ESA che coinvolge 170 città del mondo di 72 paesi, a cui possono partecipare scienziati, designer, artisti, imprenditori, ma anche studenti curiosi da tutto il mondo, indipendentemente dal loro background o dal livello di preparazione. 26 sono le challenge individuate, quindi gli ambiti sui quali i partecipanti potevano lanciare proposte, divisi su 6 aree: aeronautica, stazione spaziale internazionale, esplorazione del sistema solare e oltre, tecnologie satellitari, applicazioni per il pianeta Terra e infine esplorazione umana di Marte. Ad accompagnare i partecipanti nel corso delle 48 ore di maratona gli esperti delle startup aerospaziali incubate all'I3P di Torino. Tra questi Fabio Nichele, dal quale ci facciamo raccontare com'è andata. Buonasera Nichele. Buonasera. Responsabile del Mission Development di System Engineering Tyvak, società nata come startup negli USA circa 10 anni fa, ormai sbarcata in Europa. Voi siete specializzati in tecnologie nanosatellitari, di cui tra l'altro parleremo domani. Allora Nichele, tante le idee venute fuori, ce ne racconti qualcuna? Ci sono state diverse temi molto interessanti sviluppati dai ragazzi, soprattutto riguardo alla tecnologia per la futura missione di esplorazione, alcuni legati all'utilizzo di sistemi di dispiegabili come vele solari e nuovi concetti per lo sviluppo di pannelli solari dispiegabili, e altri legati invece all'esplorazione di Marte. Noi siamo stati coinvolti come sponsor e anche mentor di questi gruppi che hanno sviluppato le challenge proposte le sfide da NASA, appunto, che la NASA gli proponeva. Loro dovevano fornire idee, no? Sostanzialmente. Esatto. Quindi. Diciamo che per Tyvak è stato molto interessante vedere come due gruppi si siano interessati allo sviluppo di sistemi per migliorare i progetti nanosatellitari, soprattutto dal punto di vista dei sistemi di dispiegamento di nuove strutture in orbita, come per esempio antenne che al lancio vengono devono essere tutte ripiegate in qualche modo, ripiegate all'interno del nanosatellite, e una volta in orbita vengono così si dice deployate o dispiegate all'esterno per costruire strutture più performanti. Ecco, qui qual è la novità? Qual era la novità nello specifico caso? C'è stato uno sviluppo interessante che i ragazzi hanno proposto di una vela solare che può essere dispiegata facendo anche utilizzo come reflector di una antenna. Di una parabola sostanzialmente. Una parabola, ecco, esatto. Cioè, spieghiamo che cos'è una vela solare perché magari non lo sanno tutti. È un sistema che viene dispiegato come un grosso lenzuolo, una grande vela che attraverso la pressione della radiazione solare, del vento solare cosiddetto, che è fatto di particelle e anche di fotoni, insomma è proprio una vela, è un sistema di propulsione, no? Esatto, è un sistema di propulsione alternativo e totalmente gratis. Ecco, vogliamo. Ci vuole una vela gigantesca per riuscire a raccogliere abbastanza, diciamo, vento solare, perché è un vento, esatto, molto effimero, no? Ecco, quindi un CubeSat di che vela ha bisogno per poter veleggiare nello spazio? Beh, se consideriamo che la dimensione minima è 10 cm per 10 cm, da cui deve essere dispiegata questa vela, un CubeSat ha bisogno almeno di 1 o 2 metri quadrati di... Ah, quindi poco comunque, superficie. Insomma, non così tanto. Non così tanto. E già c'è un effetto? Sì, assolutamente. Qualche altro trend, oltre quindi alla navigazione a vela? Beh, sono stati sviluppati più che altro concetti relativi all'esplorazione di Marte come sistemi innovativi per la movimentazione umana. C'erano dei sistemi, diciamo, biomeccanici o esoscheletri per la movimentazione umana, e altri con l'idea innovativa di alcuni jetpack per fare dei salti veri e propri, dei balzi sulla superficie e quindi risparmiare usando dei piccoli energia. Razzetti sostanzialmente, dei piccoli razzetti, facendo esatto. dei grandi balzi. C'erano anche alcuni temi legati all'utilizzo della stazione spaziale internazionale, per esempio uno legato alla possibilità di fare geolocalizzazione delle aurora boreale, per offrire la possibilità alle persone a terra di sapere quando l'evento accade e in quale zona geografica. Da dove è visibile sostanzialmente. Esatto. Un altro tema che mi ha affascinato è stato quello dell'asteroid mining, sì. In cui NASA ha chiesto di trovare... Che vuol dire? Diciamo, traduciamolo, che magari non è chiaro. Estrazione di materiale da asteroidi. Minerali da asteroidi. È stato interessante vedere come i ragazzi hanno risposto alla challenge di NASA, che prevedeva di sviluppare concetti, idee innovative su come trovare gli asteroidi giusti per andare a fare estrazione di materiale. Ok, grazie Michele, ci fermiamo qui per il momento, ma ci risentiamo lunedì. Parleremo proprio di nanosatelliti, che è la vostra specialità. Buona serata, buon weekend a voi tutti.